Allora, cominciamo questa presentazione chiacchierata, chiamiamola così, con Federico Raponi sul suo libro Quando il fumo si dirada. Gira in varie versioni ormai, quindi abbiamo appurato, quindi ci potrebbero essere degli sfasamenti, perché io ho la versione originale, lui però ci ha messo le mani, ha fatto la seconda edizione, continua a lavorarci sopra, io gli ho fatto tanti miei veri e sinceri complimenti perché ha fatto, penso, centinaia di presentazioni e siccome il libro è un libro particolare perché è un libro che parla del suo percorso personale e politico, ma è soprattutto uno spaccato di quella che è la Roma di fine anni 80, anni 90 e quindi visto da una particolare prospettiva che in generale definiamo della Roma antagonista, ma che poi insomma li ha ancora oggi, però aveva anche in quegli anni così tante sfaccettature quella Roma antagonista, che è la visione che ha avuto Federico di alcune delle sue esperienze principali, a Scatasuna, le piraterie, Radio Onda Rossa, insomma, per restare all'ambito politico per ora. Ecco, io voglio cominciare con una domanda di questo tipo, perché insomma appunto uno potrebbe scrivere altri 100 libri a Roma, no? Avendo percorso magari strade che si sono incrociate, si sono viste, ma che hanno avuto percorsi totalmente diversi da quelli di pirateria, no? Che so, io ho partecipato a 3 occupazioni a Roma, quella più lunga e duratura a cui sono tutt'oggi legato è quella della strada di Garbatella, ma da Rosa Luxemburg dell'88 a tutti gli altri incroci potremmo scrivere un altro pezzo di storia. Ecco, questa storia qui, questa ricchezza, quanto è conosciuta oggi? No? Tu stai facendo presentazioni ovunque, soprattutto in luoghi di movimento, soprattutto in situazioni che magari a Scatasuna non si ricordano nemmeno che esisteva o la collegano più alla causa basca che non a quel centro sociale anomalo che stava al lato di Villa Panfili, in quel pezzo nascosto di Via della Nocetta. E quindi devo dire questo, in tutte queste presentazioni, sul piano propriamente politico, delle esperienze sociali che ci sono state a Roma, del rinnovamento, perché oggi tu vai in luoghi dove appunto magari quel tipo di storia forse qualcuno gliel'ha raccontata, ma non è detto, che percezione hai? Cioè, che attenzione c'è per la Roma di fine anni 80 e inizio anni 90, a cui noi siamo particolarmente legati perché, essendo noi coetanei, è stato il nostro pezzo di costruzione di militanza politica e poi di esperienze vere e proprie. Tanto grazie di essere qui, è un piacere averti qui al mio fianco, a ruoli invertiti, perché lo scorso anno avevamo presentato il libro di Andrea, Generazione di Rimessa, e io ero lì a fare domande e lui a presentare il suo libro. Finora, diciamo, ho fatto poco più di 20, di una ventina di presentazioni, per lo più a Roma, in spazi occupati autogestiti per lo più, però finora i referenti, interlocutori e interlocutrici sono stati i nostri coetanei. Ho cercato anche il confronto con altre generazioni, per esempio a Spintime con quelli di Scomodo, e poi sto provando anche a settembre, probabilmente faremo alla libreria Zalib a Trastevere, che anche lì c'è un gruppo di giovani del centro storico che lì studiavano quando era nella vecchia sede, hanno creato una realtà piuttosto interessante. Mi rendo conto che quegli anni per loro sono qualcosa di ignoto. Perché in effetti, come ragionavamo prima con te, sono stati poco raccontati dagli anni 90 ad oggi, perché poi ogni generazione sviluppa le sue forme di lotta e vive in un contesto storico completamente diverso. Poi, soprattutto negli ultimi anni, c'è stata un'accelerazione in tal senso. Se noi pensiamo alla generazione nostra che ha cominciato a fare politica negli anni 80 e 90, la memoria storica era legata magari al movimento del 77 e anche chiaramente alla resistenza, ai partigiani. Per noi magari quel passaggio era più vicino. Mi rendo conto che invece è una realtà molto distante perché Roma, anche la stessa città, si è molto trasformata tra gentrificazione. Poi stavo facendo la considerazione che io vengo da 5 occupazioni molto indietro nel tempo perché in un lasso di tempo abbastanza breve si sono compiute tutte e 5, ma di quelle non c'è più traccia. E ti rendi conto anche del primato dell'economia rispetto alla socialità, alla politica, perché uno dei centri sociali è diventato un albergo, un altro un supermercato, altri sono stati rasi al suolo. Insomma, la città si è trasformata parecchio e quindi è anche difficile poi passare il testimone ideale a chi adesso sta praticando le proprie lotte per un mondo differente. Però ecco, mi piacerebbe continuare su questo versante, come ti dicevo prima, avere tanto interlocutrici donne, perché poi uno vede i vizi che magari come movimento ci portiamo dietro è di parlare sempre un po' a noi maschietti. E poi, ecco, un confronto con chi sta vivendo adesso le lotte. E poi, ecco, con una predilezione per spazi occupati autogestiti in continuità con quello che è stato il mio percorso. Sì, noi magari di quegli anni abbiamo parlato poco, anche perché non li abbiamo giudicati anni gloriosi come i reduci degli anni 70 che ancora oggi, no, ci raccontano le gesta leggendarie, ogni volta ce n'è una nuova, poi più vanno avanti con gli anni e peggio. Però al di là delle battute, al di là di questo, ti volevo dire che due dei compagni, degli amici che citi nel libro, anche di recente, hanno pubblicato altri due libri, non sugli anni 90, perché Gianluca Peciola, che tu citi nel libro, ancora proviamo a fare politica assieme per quanto ci riusciamo. Ha fatto anche presentazioni. Ha scritto un libro su Genova proprio qualche mese fa, che sta presentando anche lui a tambur battente in giro per Roma, un memoriale dei giorni di Genova. E Davide Vender, Davidino, che anche hai citato nel libro, mio fraterno amico e amico anche di Stefano, che sta a cavallo tra lui e me come età, che ha scritto invece un libro di studio, di approfondimento storico, chiamato Piccola Borghesia. Quindi magari parliamo poco di noi, però è una generazione che sempre più prende la parola sulle questioni di cui più si è occupato. Davidino quel libro lo rimuginava dai tempi dell'università, quindi figurati che gestazione che ha avuto. È un libro veramente, veramente da leggere, insomma, perché ha tanti tratti accademici e di approfondimento che non si trovano neanche in molti testi accademici. È uno studio sulla borghesia agraria che spianò la strada al fascismo e a cui storicamente è stato affibbiato un ruolo secondario, perché si è sempre collegato il fascismo a un ceto medio più impiegatizio, più cittadino, mentre in realtà un peso preponderante lo ebbe la piccola borghesia agraria, come Davide ben dimostra con alcuni testi del libro. Per cui abbiamo scritto, e sempre su questa linea però, no? Quando si parla di quegli anni, quando si parla di quelle esperienze, al di là del fatto che le domande banali, quelle che, qual è quella che uno ha più nel cuore, sono banali, perché ovviamente la propria vita è tutta importante, le proprie scelte politiche stanno riassunte spesso in pochi nomi, no, a cui uno si lega. Però c'è stato un filo, no? Lì che ha portato appunto le cinque occupazioni molto vicine, un quadrante di città, come dici tu, Roma è cambiata tutta, quel quadrante di città, diciamo da Porta Portese verso Monteverde, è cambiato moltissimo, no? Io ho dei parenti là, quindi ci passo più per motivi personali che politici, e mi pare che sia uno dei quartieri di Roma dove più è arrivata quella che un sociologo francese chiama la gentrificazione silenziosa, perché non c'è solo la gentrificazione che riempie di locali, c'è quella in cui gentrifichi senza mettere attività e locali, cioè però gentrifichi uguale, che è un concetto che lavora sul paradosso. Ecco, quel pezzo di città e poi Roma tutta, oggi tu come la vedi? Alla luce della tua esperienza politica e alla luce di quello sempre che stai toccando con mano, girandola per il libro. Tanto negli anni comunque ho ridotto il mio raggio d'azione, forse l'età non lo so, però sto in libreria mattina e pomeriggio, quindi Monteverde considera che ha un solo teatro, neanche più un cinema. Ci sono sale che nel periodo 80-90 già non c'erano più. Poi non ha neanche spazi d'aggregazione delle piazze, dei luoghi di ritrovo. C'è qualche localetto, però comunque è un quartiere anonimo e lontano poi dalla vita cittadina, perché a Monteverde non ci si passa, o vai a Villa Panfili, che comunque è il parco più grande di Roma, il parco più importante, sta sopra Trastevere, ma non è inserito in giri della cosiddetta movida, o comunque non è praticata, cioè a Monteverde non ci si passa, c'è poco da fare. Io poi frequentavo molto Trastevere, fin dal periodo del liceo, il Bar San Callisto è stato un punto di ritrovo, un punto di riferimento per decenni, e poi con la sua curiosa composizione che era anomala a Roma, nel senso che di giorno ci stavano i trasteverini e le trasteverine, la sera diventava un porto di mare sempre di più, chiaramente dal turismo di stranieri a chi veniva da varie parti di Roma. Negli anni Ottanta c'era stata il primo confronto, diciamo, in uno spazio visibile di Roma come Trastevere, tra i cosiddetti punk, gli alternativi e i bulli, quelli che erano i trasteverini. Chiaramente all'inizio sono state scintille, però poi il carattere di Roma è anche quello di assorbire tutto quello che succede e farlo proprio in un minestrone. Ecco, adesso vedevi anche negli anni Ottanta, c'era il trasteverino tossico e c'era la popolana, insomma. Racconta nel documentario Barricata San Callisto il titolare che erano costretti a bucare i cucchiaini perché giravano i tossici e quindi i cucchiaini sparivano. E Roma è cambiata tanto a partire proprio da Trastevere, quando tutta la popolazione storica residente Trastevere erano tutti in affitto, la pigione. Sono stati spostati tutti a Ostia, nelle altre borgate romane, e piano piano il centro, a partire da Trastevere, si è riempito di turisti stranieri che compravano la casa in un posto affascinante, quello che poi adesso magari può essere diventato il Pigneto, no? E si è riempito di ristoranti, di bed and breakfast, e un po' in questo senso è successo un po' in tutta la città. Magari adesso nelle borgate vedi una grande convivenza multietnica. Chiaramente i migranti vanno nelle case dove pagano il meno in affitto, e questo succede ormai nelle periferie, no? Il centro ormai o sono uffici, appunto, o le catene dei negozi di incaglierie e cianfrusaglie, o bed and breakfast o ristoranti. In questo Roma è molto cambiata, non ritrovi neanche più quello spirito popolare che, appunto, frequentando Trastevere ti vivevi. Qui parecchie persone hanno letto il libro, io no, ma penso anche alcune altre. Per cui forse se raccontate anche un po' il libro, magari a partire da anche da qual è stato il tuo punto di vista e il tuo posizionamento, la tua prospettiva nel raccontare una storia, quindi una prospettiva di sicuro parziale, ma anche nel raccontare il libro che cosa pensavi di metterci di differente. Ok. Giustamente, grazie della domanda, perché davamo per scontate un po' di cose. È un libro autobiografico in terza persona che mi è venuta da subito ed è un modo un po' per prendere le distanze da se stessi, vedersi possibilmente con un occhio un po' più oggettivo e distante. Poi vabbè, il titolo è venuto subito. Un riferimento ideale potrebbe essere un passaggio di una canzone degli Assalti Frontali: davanti al fuoco della strada la nebbia si dirada. Però no, mi era venuto proprio autonomamente questo titolo. Ed è un diario a posteriori, a 20-30 anni di distanza dai fatti. E quindi è anche in questo senso un diario emotivo, legato ai ricordi che più mi hanno impressionato o a ricordi su fatti politici rilevanti. Comincio dalla prima infarinatura politica, quindi dal periodo del liceo al Manara, appunto a Monteverde. Però poi il motore di tutto è stata la Pantera. A Roma le varie facoltà occupate, ognuna era diventata un piccolo centro sociale. Avevano il proprio bar, facevano le proprie serate, i propri concerti, le proprie iniziative di dibattito. E la sera da tutta Roma si andava alla Sapienza, perché era lì il fulcro della vita culturale, politica, sociale, di quello che si muoveva a Roma. E per me è stato un motore, perché poi io, nato e cresciuto a Monteverde, non c'era un centro sociale, ho detto io voglio farmi un centro sociale nel mio quartiere. E così ho fatto, frequentando un po' amici che conoscevo dal periodo del liceo al Manara e frequentatori di Villa Panfili, della cosiddetta collinetta, in cui ruotavano comunque centinaia e centinaia di giovani. Ho messo su un collettivo dal niente e così è nata la prima occupazione. Poi da lì ci siamo collegati al collettivo Aria Libre di Bravetta. I fascisti lo avevano bruciato, quindi eravamo senza spazio anche loro dopo il nostro sgombero. Abbiamo occupato insieme, ma vicino, troppo vicino all'abitazione dell'allora Presidente della Repubblica Scalfaro, per cui siamo durati 10 giorni, ci hanno sgomberato. E poi guardandomi intorno c'era stata a fresca fresca l'occupazione di pirateria a Porto Fluviale e ho detto proviamo lì. E io e un pugno di ex Ascatasuna siamo approdati a pirateria, abbiamo vissuto tutte e tre poi le diverse fasi. E poi ci sono momenti importanti come il processo Pritke, che ha fatto storia per quello che è successo, ma anche a livello di giurisprudenza, perché ha sancito la imprescrittibilità per i crimini di guerra e la responsabilità individuale, cosa che fino a quel momento non c'era stata nei processi ai gerarchi nazisti che si erano svolti fino a quel momento. E poi l'esperienza del Teatro Valle Occupato, che a mio modo di vedere è stata l'ultima grossa esperienza collettiva a entusiasmarmi, proprio per la sua variegata composizione, ma anche per il livello che ha espresso, sia politico, perché poi a sostenere quell'occupazione c'erano due personalità come Ugo Mattei, che era, oltre che docente universitario, uno degli estensori dei quesiti referendari sull'acqua pubblica e sul nucleare, e Stefano Rodotà, uno dei candidati alla presidenza della Repubblica, e nomi di artisti internazionali. Ecco, ripensando alla Pantera, il Teatro Valle era diventato il centro culturale cittadino. Quando c'erano serate, c'era la fila all'ingresso che girava tutto intorno all'isolato. È stato un fatto importante. Poi, dopo i 3 anni, è fino a nulla anche di quello. Sono passati adesso i 10 anni, ma già il ricordo è quasi svanito, insomma. E arrivo fino a Radio Onda Rossa, che per me è stata un'esperienza formativa fondamentale, più di 20 anni, tuttora sto lì. Io nel 2018 avevo pensato di smettere per stanchezza personale, mi hanno convinto sia gli ascoltatori e le ascoltatrici che la redazione a continuare, adesso vado in onda registrato, avendo molto più tempo a disposizione per me, però è una cosa che continua, io devo molto a questa esperienza. Chi va a Radio Onda Rossa deve saper far tutto, impara a far tutto, da rispondere al telefono, ad aprire la porta, a accogliere gli ospiti, a fare i redazionali e tutte le varie trasmissioni, da quella musicale che poi andava nei vari centri sociali, spazi occupati, a registrare i concerti con il DAT, quindi in digitale, e poi degli estratti li trasmettevamo in trasmissione. Quella sulla memoria storica, che è stata fondamentale, con i due partigiani della resistenza romana come Franco Bartolini e Orfeo Mucci, che ho conosciuto proprio durante il processo Pripke, e poi le trasmissioni che tuttora proseguono di cinema e di teatro, oltre a quelle con la figlia di Mario Monicelli, che era un affezionato ascoltatore della radio, Ottavia, con cui abbiamo fatto la trasmissione delle favole per bambini lette da attori e attrici dagli sconosciuti ai più noti, e quella sulle colonne sonore. Insomma, ho messo insieme in vari mesi, anche confrontandomi con chi quel percorso ha fatto o comunque lo ha attraversato per alcuni momenti, ho rimesso insieme un po' di ricordi e dandogli una forma di diario. Non esprimo giudizi, è un continuo rincorrersi di eventi, i ragionamenti li lascio a chi leggerà poi il libro. Grazie che ci hai riportato su una via ben definita, e continuo su questa via cercando di toccare qualche aspetto particolare. L'esperienza di Ascatasuna, la conoscenza del carcere. Al di là del vissuto personale, quello che mi ha da dire è quanto riusciamo a fare poco sul carcere, sempre. Da quando stavamo noi in prima linea, io stavo fuori dal carcere, no? Il gruppetto di scienze politiche che lanciò la battaglia su Prospero, su Salvatore, le cartoline, entravamo, uscivamo, ci accompagnavano tendenzialmente Russo Spena e Nichi Vendola, allora parlamentari del PC, tutti e due indipendenti. Quanto su quella roba lì riusciamo ancora oggi a essere muti? Questa è la mia domanda provocatoria a te, che portavi la musica spesso fuori dalle mura di Repubblica. Sì, ma questo dipende anche dai tratti di marginalità, chiamiamola tra virgolette, in cui è precipitato un po' il movimento rispetto agli anni 90, in cui comunque secondo me Roma, perché poi me ne sono reso conto anche leggendo quel libro che è uscito, quell'antologia Detonazione, curata da chi ha curato varie esperienze di quel periodo, che raccoglie tutto quello che si è mosso a Roma nel decennio 90, dai centri sociali ai rave illegali, alle fanzine, alle emittenti, e ti rendi conto che Roma è stata a livello direi europeo un laboratorio incredibile. Quando c'erano le iniziative dei centri sociali, bastava dirlo un giorno o 2 giorni prima e comunque c'erano centinaia di persone. Adesso non ci sono quei numeri. Facevamo i cortei, ricordo il corteo quello legato anche alla nuova frequenza, quando occupammo la frequenza rimasta vacante, le frequenze quelle attuali di Radio Onda Rossa, il corteo di 10.000 persone che ha attraversato tutta via Cavour. Quelli sono numeri, era tutta la Roma autogestita, antagonista. Oggi i numeri sono ben diversi. Sul carcere ugualmente, la radio ha questo merito di fare ogni anno il capodanno dalla mattina al pomeriggio davanti a Rebibbia per portare un saluto ai detenuti e alle detenute con la musica, con i microfoni aperti, quindi con i parenti e gli amici dei detenuti che prendono parola. però chiaramente ti rendi conto che è una battaglia. Poi con quest'ondata legata anche a tutto quello che è successo con successo l'espoir qualche anno fa del Movimento 5 Stelle, ma anche di movimenti di destra come la Lega, quindi il giustizialismo, quanto quelle battaglie legalitarie hanno fatto male al tessuto sociale, quanto carcere in più hanno portato e quante storture, se poi vediamo la cronaca recente con i pestaggi. Proprio l'altro ieri intervistavo uno dell'associazione Antigone che ha presentato pochi giorni fa il rapporto di metà anno sulla condizione delle carceri in Italia. I problemi continuano ad essere sempre quelli che storicamente ci portiamo dietro, dal sovraffollamento ai tanti detenuti che sono ancora in attesa di giudizio definitivo, ai tanti migranti. Sta crescendo il ricorso alle pene alternative fuori dal carcere, ma comunque siamo ancora indietro. Le carenze rispetto alle strutture, ma anche agli assistenti e ai vari operatori che non siano comunque guardie carcerarie, perché il rapporto poi è molto differente. Se c'è una guardia carceraria ogni 1,6 carcerati, per ogni operatore ci sono 40 o 60 detenuti. È una battaglia difficile che appunto alcune componenti del movimento, tra cui Radio Onda Rossa, continuano generosamente ad essere coerenti nel tempo. Ho una domanda tra il personale e il politico, perché alla base del libro, lo dici nelle prime pagine, c'è il momento anche del distacco dalla figura paterna, da tuo padre, così forte come presenza anche nel libro per come la racconti. Poi parli del distacco dalla radio, appunto, ricomposto, però parli sempre forte di questo concetto di distacco, di allontanamento. E poi c'è la riscoperta invece delle origini nel libro, soprattutto nelle pagine finali, con la vicenda dello zio Duilio, con la scoperta da parte di tua madre di questo zio all'interno di un elenco, con tutta la tua volontà e il tuo impegno per fargli avere i dovuti riconoscimenti. Ecco, distacco, allontanamento e riscoperta. Quanto in questo libro ci hai messo, quanto oggi pensi che se lo riscrivi, quanto ancora ci metti su quei temi, perché sono temi che percorrono il libro dall'inizio alla fine. Credo che sia l'appartenenza sia stato un elemento fondamentale per creare la propria personalità, non solo politica ma anche umana, e però l'essere sempre te stesso, quindi sentirsi anche differente rispetto agli indirizzi che prende il tuo gruppo politico. Io mi sono sempre sentito autonomo, ma anche rispetto a quello che mi circondava, e quindi quando un'esperienza non era più nelle mie corde cambiavo direzione. Questo è importante, mantenere sempre un senso critico, quindi va bene l'appartenenza e comunque ti forma. Questo me ne sono reso conto anche rispetto alla memoria storica. Ho fatto una trasmissione importante, Voci della Resistenza, soprattutto su quello che è stato il percorso della Resistenza. Ho avuto come interlocutori Franco Bartolini, Orfeo Mucci, uno di Bandiera Rossa, uno dei GAP, e ho imparato tanto. Ho capito anche quanto è importante trasmettere memoria, quanto è importante, per esempio, quello che ho fatto, scriverlo, qualcosa che resti. Perché poi appunto passano i decenni e le generazioni successive magari non sanno proprio che cos'è successo, però poi è importante che ogni generazione sviluppi in modo autonomo, perché poi i contesti storici, come dicevo prima, cambiano, sono completamente differenti. Quanto è importante che ogni generazione, pur sapendo, informandosi con una sanissima curiosità rispetto a quello che è successo prima, sviluppi il proprio percorso. Però appunto facendo tesoro delle battaglie che hanno fatto gli altri, anche perché molte conquiste di cui godiamo oggi le abbiamo grazie alle battaglie che hanno fatto le generazioni passate. Ci parli di zio Duilio, la vicenda di zio Duilio, perché non ha letto il libro? Sembra proprio una storia di un film. Nella tomba di famiglia al Verano, Duilio Madioni, c'è solo la foto, la data di nascita e scritto disperso in guerra. Mia madre, che per una sua curiosa fissazione che neanche lei si sa spiegare, si è sempre interessata alle storie dei campi di concentramento, per cui ha letto tanti libri sui campi di concentramento, e leggendo un libro di un partigiano che è stato anche premio Bancarella, Tu passerai per il camino. Nell'edizione Murcia degli anni 60, in fondo al libro c'era l'elenco di tutti gli italiani morti a Mauthausen. E lei, scorrendo quell'elenco, ha trovato il nome di suo zio, che è un nome particolare, Duilio Madioni, forse era solo lui in Italia. E quindi ha cominciato a fare delle ricerche. Durante una iniziativa nella nostra circoscrizione a Monteverde sulla memoria storica, ha preso contatti con il comitato per la concessione della medaglia al valore per i civili e i militari italiani morti nei campi di concentramento, ha dato il nominativo ad uno di questi signori che ha fatto le ricerche. Noi sapevamo solo che nei giardini di San Giovanni del 1943, per difendere una persona che era stata fermata da una pattuglia di tedeschi, diede uno schiaffo a un ufficiale nazista. Da lì sappiamo solo che è finito a Via Tasso e poi se ne sono perse le tracce. Poi abbiamo ricostruito tutta la storia tramite questa documentazione, perché poi i nazisti comunque hanno tentato di distruggerla quando i campi sono stati liberati e aperti. Però dal punto di vista della documentazione loro sono precisi, quindi c'era tutto archiviato. Abbiamo scoperto che da Roma il mio prozio è stato portato al carcere militare di Peschiera del Garda e da lì, insieme a quasi 2000 soldati italiani, sono stati trasportati in treno al campo di concentramento di Dachau. E da lì poi, in due campi di lavoro, campi satelliti intorno a Dachau, Mauthausen e infine nel castello di Artem, che aveva anche una camera a gas, e lì è stato gasato mio zio. Tra l'altro lì ci portavano quelli che non erano più abili al lavoro, quindi immaginiamo le condizioni in cui è arrivato lì, sia perché non mangiavano, sia per il freddo, le malattie, li portavano a morire nelle camere a gas, insomma. E quindi abbiamo ricostruito questa storia, io l'ho seguita, ho inviato tutta la documentazione e nella giornata della memoria del 2020 sono andato a ricevere la medaglia d'onore per il mio prozio a Palazzo Valentini qui a Roma. Insomma, mi porto dentro anche questo lascito legato anche alla figura della mia bisnonna, lui era uno dei suoi figli, questa vena in qualche modo ribelle, questo senso di giustizia probabilmente ha le mie radici in questa parte di famiglia, e questo trovo che sia molto importante, sembra proprio un film tragico, un film che però ha avuto anche un barlume di luce, ecco, in questa soluzione finale. Una domanda sull'aspetto professionale, perché Federico, giovane studente, entra per la prima volta a Radio Onda Rossa, come tanti di noi, va fuori dai banchi, comincia a fare trasmissioni, poi chi più chi meno resta là dentro per parecchi anni, però Federico nel frattempo affina tante capacità, cinema, teatro, giornalismo. Ecco, oggi che cosa ti ha dato quell'esperienza, che cosa ti viene da là, che cosa hai costruito insieme a quell'esperienza? E come ci dicevi prima, dura ancora, e che cosa fai oggi fra le tante cose? Tutto è cominciato chiaramente la radio, a cui comunque devo tantissimo, una radio autogestita in cui tutti devono saper far tutto, e lavorare all'interno di una collettività è molto formativo, tu dai tanto ma ricevi anche tantissimo, perché io ho messo tanto del mio tempo, del mio lavoro, del mio impegno. Poi per caso una mia amica che ascoltava la trasmissione di cinema mi propose di scrivere recensioni per un suo blog di cultura a Roma, e io ho detto perché no, proviamo. E così è nata la scrittura, perché io prima non scrivevo comunque. E da lì poi ho detto vabbè, ma proviamo anche con i giornali, se mi piaceva comunque la scrittura. E così ho cominciato con Liberazione, per cui scrivevo di cinema, ma poi anche di altro, di teatro, di musica, di società, per il quotidiano dei Verdi, Terra. Poi ultimamente anche per l'Opinione, ma perché le interviste che facevo basta trascriverle, ne faccio un articolo e una vetrina in più. Poi però oggi il giornalismo secondo me in Italia è praticamente azzerato, i quotidiani per cui scrivevo hanno chiuso tutti, Liberazione ha chiuso, con Terra ho intentato anche una causa perché ha smesso di pagare i collaboratori esterni, causa che comunque è andata male perché il buon direttore cambiava sede legale di continuo a livello internazionale, quindi inseguirlo in Sudafrica, New York, è diventato impossibile, quindi quella causa è andata male. E però anche il giornalismo scritto è stato un ulteriore tassello di formazione, i frutti poi li ho avuti grazie alla radio e alle mie trasmissioni. Quella di cinema ha vinto il premio nazionale Domenico Meccoli, Scrivere di cinema, nel 2008, e 10 anni dopo ho vinto anche il premio cittadino, il microfono d'oro, sempre per la mia trasmissione di cinema. Quindi vuol dire che il mio lavoro, il mio impegno, qualche risultato viene riconosciuto anche al di fuori della cerchia del movimento e della militanza. È successo tutto casualmente. Anche la passione per il giornalismo, per le interviste, io ho scoperto quanto è bello fare le interviste. La capacità di ascoltare credo che sia fondamentale nella vita, il capire il pensiero degli altri, e quindi ho affinato anche questa cosa. Adesso le mie trasmissioni di cinema e teatro sono basate soprattutto sulle interviste, mettendomi anche nei panni di chi ascolta, per cui facendo spiegare, non dando per scontate le cose al mio interlocutore. È una cosa che mi piace tanto e mi sta dando tanto, quindi speriamo di continuare così. Poi, come dicevo prima, la radio non ce la facevo più, adesso vado in onda registrato, però sono aperto a qualsiasi nuova cosa il destino mi ponga davanti. Però il giornalismo certo mi piace tanto. Quindi dopo, quando il fumo si dirada, ci sarà un altro libro, magari in forma di intervista, con delle interviste dentro, e racconterai qualcosa. Sì, un progetto già si sta delineando, mettermi al servizio di un altro racconto in forma, ecco, di intervista, e poi cercherò di rielaborare in forma un po' più di racconto. Però sì, ecco, anche lo scrivere un libro è nato su vari stimoli. Tra l'altro ci aggiungo anche la morte di Mattia Torre, uno sceneggiatore di teatro e di cinema e di televisione, è abbastanza noto anche per una fiction TV con Valerio Mastandrea su Rai 1 in prima serata. Padre di 2 figli, sposato, più o meno coetaneo mio, anche lì è stato abbastanza traumatico. Ho detto, vedi, te ne vai da un momento all'altro, e quello è stato un ulteriore tassello per dire no, mettiamo dei punti fermi da cui ripartire, facciamo una sorta anche di bilancio, perché questi sono 50 anni di vita, insomma, di tante storie che ho attraversato. Ecco, pure il fatto che ho scelto la terza persona per raccontare è perché questo mi è venuto automatico, subito, perché è anche un rendere omaggio alle migliaia e migliaia di persone che hanno fatto con me questo percorso, quindi è anche un po' parlare di loro, guardarsi da fuori e guardarsi in un gruppo che ha fatto queste cose nelle migliaia che magari attraversavano le piazze. Grazie Federico. Da ultimo ti volevo dire, abbiamo accennato ad alcune parti del libro, c'è tutto il pezzo della formazione giovanile, lì, insomma, lì dove poi lasci, non vai più allo stadio, quella parte lì a me piace meno, quindi la lascio perché ancora ci vado, quindi non riesco a digerirla quella fino in fondo. Però se invece dovresti continuare questa di storia, come la continueresti? Come racconteresti quello che viene dopo, diciamo da Genova in poi? Genova io ero già in ospedale, non sono potuto andare, già mi ero rotto da solo. Cioè, comunque, vabbè, l'esperienza, come dicevo prima, del Teatro Valle è stata molto importante, non solo a livello personale e collettivo, ma proprio a livello, secondo me, culturale più generale. Per certi versi mi sono allontanato dagli ambiti politici collettivi. In radio io adesso comunque sono quasi un ologramma, nel senso, la faccio da remoto, fisicamente io non frequento neanche più gli studi. Apro una parentesi, mi hai fatto pensare anche a una cosa rispetto alla cosa che dicevi delle differenti edizioni del libro. Ogni edizione ci rimetto mano, aggiungo, modifico cose. Per esempio, questa cosa me la disse mio padre prima di andarsene, perché era riuscito a leggere la bozza definitiva del libro prima che andasse in stampa. E questa cosa poi me l'ha detta anche mia madre, che io per esempio non ho citato le 2 perquisizioni a casa che ho avuto, anche perché non c'ero a casa, però se le so vissute loro 2, e quindi mi sembrava giusto, anche era una curiosa omissione la mia. Comunque c'è 2 momenti brutti anche per una famiglia, una perquisizione notturna a casa, anzi 2 perquisizioni a pochi anni di distanza l'una dall'altra, e quindi mi sono sentito anche in dovere di aggiungere questi episodi. Io adesso mi piace vedere in giro per l'Italia, anche in base alle interviste che faccio per la cultura, dalla musica al cinema, al teatro, alla letteratura, agli esempi virtuosi. Questo mi piace molto, anche per chi viene da una storia, da un percorso differente del movimento che abbiamo fatto noi, ma che comunque riesce a essere qualcosa che migliora la società. Se penso, per esempio, il primo in mente sono le aziende, le terre confiscate alla mafia e ridate alle cooperative di giovani che, grazie al lavoro agricolo, ridanno nuovo valore a questi spazi. Ecco, queste sono esperienze che secondo me fanno il bene della società, ma come questa ce ne sono tante altre, ne vengo a scoprire continuamente. Nella mia curiosità, che poi è la base di tutto, la curiosità in una persona, quella che ti fa andare avanti, questo secondo me sono le realtà da tenere sott'occhio e da alimentare e da sostenere. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie a Federico. Grazie a voi due.